Il punto, diciamo, è sempre quello delle tre principali direttive di indagine, ovvero i tre gruppi principali di indagati sono manager e tecnici della società Autostrade, tecnici di SPEA, che è la società sempre del gruppo Atlantia che lavora, si occupa di monitoraggio e di progettazione, e poi i funzionari, dirigenti e tecnici del Ministero delle Infrastrutture, sia quelli a livello locale del cosiddetto provveditorato delle opere pubbliche che quelli centrali romani dell'ufficio vigilanza sulle concessioni. In sostanza, l'ipotesi al momento della procura sul crollo del ponte qual è? È che siano state delle negligenze da parte della società Autostrade e dei tecnici di SPEA che non abbiano saputo rilevare segnali di allarme, i famosi campanelli di allarme, come si dice, che arrivavano da tutta una serie di dossier e di studi che erano stati fatti sul ponte, in particolare sugli stralli, che sono poi quei grandi tiranti di calcestruzzo con dentro l'anima di acciaio. Quindi questo le presunte responsabilità per Autostrade e SPEA, mentre per il Ministero quello di non aver vigilato bene e anche loro di non aver saputo cogliere quella che era la situazione grave che emanava da tutta una serie di atti, di documenti, di dossier, di studi. C'è stato anche tutto il caso, diciamo, dei messaggi cancellati. Oggi è stato chiamato anche un altro indagato sempre del Ministero dei Trasporti che era coinvolto, se non sbaglio, anche in tutta la questione del si possono cancellare i messaggini di WhatsApp, e quindi c'è quest'alone per cui c'è l'idea che qualcuno appunto sapesse della gravità della situazione del ponte. Sì, dunque sono due cose, diciamo, distinte, nel senso che da un lato i finanzieri che cosa hanno scoperto? Nei primi giorni sono state clonate tutte le memorie dei computer, di moltissimi telefonini, di dirigenti, non soltanto di quelli indagati ma anche di altri che comunque lavoravano in determinati uffici che avevano avuto a che fare con il ponte. Bene, esaminando le memorie di questi telefonini si è notato che subito a ridosso della tragedia del ponte sono state cancellate delle chat tra manager, tecnici, funzionari. Adesso con degli strumenti sofisticati tecnologici si sta cercando di ricostruirle e possibilmente di avere le chat o comunque tra le persone che si parlavano in queste chat. Nel frattempo, da un interrogatorio di uno degli indagati, un dirigente ministeriale che è Bruno Santoro, che è stato l'unico finora a parlare, anzi è lui che aveva chiesto l'interrogatorio, è scaturito da questo interrogatorio il nome di un 21esimo indagato. Finora erano 20, il 21esimo sarebbe un altro funzionario ministeriale il cui nome sarebbe emerso nel corso dell'interrogatorio di Santoro, probabilmente per una questione di responsabilità di ufficio, cioè aveva comunque delle responsabilità relative al ponte nell'ufficio che dirige questo alto dirigente del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Guardando invece agli appuntamenti futuri, diciamo alle date da seguire con attenzione, la prossima udienza in tribunale, se non sbaglio, è prevista il 17 e il 18 dicembre e invece è iniziata oggi la repertazione dei detriti, quindi cosa ci dobbiamo aspettare appunto da questa parte delle indagini invece? Allora, oggi quello che è iniziato è l'incidente probatorio, ovvero una fase processuale in cui vengono fissati i cosiddetti elementi di prova alla presenza sia dei periti, dei giudici, della procura, ma anche dei periti e degli indagati, così come delle parti offese, cioè i familiari delle 43 vittime del ponte. In realtà questo primo incidente probatorio servirà soprattutto a fissare qual è lo stato al momento dei Monconi ed è finalizzato soprattutto a poter dissequestrare tutta l'area in modo che poi si proceda alla demolizione e poi alla ricostruzione del ponte. Ci sarà poi un secondo incidente probatorio che avrà il compito molto più dettagliato di entrare nelle cause, cioè di definire quali possono essere state le origini del crollo. Quindi questi sono i passaggi. Verso il 17 dicembre ci saranno le altre udienze fissate per questo incidente probatorio, ovvero i periti entro quella data dovranno dare un loro primo parere. Spostandoci invece in un ambiente un po' più politico ed economico, è stato approvato il decreto Genova. In realtà Salvini ha anche già dichiarato che potrà comunque essere modificato in Parlamento a seguito delle proteste da parte degli enti locali e degli sfollati, e nel frattempo è prevista anche la nomina del commissario per la ricostruzione, però c'è ancora indecisione sul nome, nel senso subito sembrava dato per certo il nome di Gemme, invece il Movimento 5 Stelle ora sta, diciamo, facendo resistenza a questo nome. Quindi a livello più politico, qual è la situazione adesso e che cosa sancisce già da ora il decreto Genova? Dunque, a livello politico c'è, nonostante le promesse delle prime ore, con questo decisionismo, con la promessa di fare in fretta, c'è una sorta di rallentamento dovuto proprio a questioni prettamente politiche. La prima è, c'è stato il decreto, ma gli enti locali, come dicevi tu, non sono contenti perché ad esempio non ci sarà sarebbero abbastanza soldi iniziali, soprattutto per il porto di Genova, ma anche le procedure fissate per i risarcimenti hanno sollevato alcune critiche sia dagli sfollati che dagli enti locali, dalla regione in particolare. E poi c'è questo nodo di questo benedetto commissario. Quando ancora non c'era quasi neppure, era appena stato emanato il decreto, Salvini aveva già annunciato un loro nome, il nome fatto è stato poi quello di Claudio Gemme, ma ci sono due grossi ostacoli per la sua nomina, e due ostacoli tecnici, anzi per meglio dire, e uno politico. Gli ostacoli tecnici sono il fatto che lui è un manager di Fincantieri, a Fincantieri il governo vuole affidare la ricostruzione, prima ipotesi di conflitto. Seconda ipotesi di conflitto, la famiglia Gemme è proprietaria di un alloggio proprio sotto il ponte, uno di quelli sfollati che dovranno essere ricostruiti, quindi secondo conflitto, perché il commissario dovrà poi stabilire dei risarcimenti anche per questi appartamenti che verranno distrutti. Insomma, quindi due casi di questo genere. Terzo ostacolo, che è di natura politica, il Movimento 5 Stelle non vuole un candidato che fa riferimento alla Lega, preferirebbe un candidato suo, in particolare a Genova si fa il nome di Roberto Cingolani, che è uno scienziato e il presidente dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Insomma, nelle prossime ore si vedrà, ma ancora una volta è quello che è certo, che c'è un ritardo sui tempi.